Welcome. You have just accessed the Akashic Records Genetic Information Division. This program is required for those wishing to attain a marriage blessing from the kingdom. When you wish to begin this program, place your right hand on the scanner and tightly clench up your butt cheeks, as you might feel a slight electrical shock. Please select the race history you desire. You have selected African American. This is your history. First of all, the term black and white is a fallacy. It simply is another way of saying this or that. Let's examine the term this or that in its ultimate form, which is this means the truth or that which is resistant to it. When a minority realizes its similarities on a higher level, not just black, but people of color, and higher still, indigenous, and even higher still, from the tribe of, and yet higher, the rainbow children, then this understanding comes, the so-called minority becomes a majority in a wink of an eye. This action will cause a reaction or resistance. The source of this resistance must be banished, as it is in direct conflict with the initial action. It cannot be assimilated, for its very nature is resistance. In other words, one cannot serve two masters. You are either this or that, which is not this. End of part one. To continue, select the program, family name, and type in the current government name you wish history on. London, England. Sometime in the early 1600s. We have the God-given right to run out of our colony. Anyone who does not bow down to our... Yeah, exactly. That's what I said. So say it's a majority. Devil, what you know? You've been here let everybody get in the game. Put up a one glove fist, make a sound. Violet Brown. Grande finale questo di questo brano splendido, tratto da un album uscito nel 2001 del grande Prince, ma sicuramente molti l'avranno riconosciuto, la sua voce inconfondibile e la sua ritmicità funk che attraversa poi anche i lidi del pop. Stasera abbiamo anche voluto fare un omaggio a grande Prince, a un brano splendido da The Rainbow Children uscito nel 2001. Prince, che è sempre attraversato, è nato nel funk, ma ha avuto la grande genialità di introdurlo e di mixarlo dentro una dinamica che spazia dalla dance fino ad arrivare alla dimensione pop più avanzata possibile, attraversando gli anni 80 e gli anni 90 fino anche agli anni 0. Grande Prince in apertura della seconda parte di 451 frammenti sonori, che di regola non introduce grossi nomi mainstream, ma Prince esce veramente fuori da questo tipo di approccio e di catalogazione, dunque l'abbiamo voluto inserire, anche perché poi in questi casi succede anche che grossi nomi per questo motivo vengono tranciati, anche quando poi album e brani meritano assolutamente l'inserimento all'interno di una trasmissione come la nostra, che si dedica prevalentemente alla musica sperimentale, alle musiche di ricerca e di confine. Quale confine? Chissà, forse il confine del non confine. E da obliquità funk ripartiamo, in questo caso la seconda parte, per coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso sulle frequenze di Radio Città del Capo. 451 frammenti sonori stasera in compagnia solo di Elisio Scarpo. Ultimamente ci alterniamo tra me e Max Macchia, vedrete che le ultime puntate prima di questa devastazione estiva in termini di caldo le faremo insieme, ma ovviamente per coloro che fossero solo ora in ascolto di Radio Città del Capo, 451 frammenti sonori sta aprendo, anzi ha aperto appena adesso con Prince, la seconda parte della puntata dedicata alle obliquità funk dagli anni 80 agli anni 0, dunque tutto il funk obliquo, anomalo, le anomalie funkeggianti inserite dentro territori e dimensioni anche molto differenti, il modo, diciamo, forme in cui il funk si è riuscito ad inserire, quasi a innestarsi dentro universi e pianeti musicali molto distanti. Abbiamo aperto con Dinosaurel, poi abbiamo attraversato i meandri di Was Not Was per arrivare in terra britannica con Certain Razzia, Clock DVA, e per aprire di nuovo dagli Stati Uniti d'America con Prince da The Rainbow Children. E ora attraversiamo ancora i lidi più legati all'house che come per molta techno e per molta elettronica che ha iniziato ad aprire i suoi battenti negli anni 80 e poi si è sviluppata tra gli anni 90 e gli anni 0, deve molto al funk, all'electro, poi successivamente comunque alla black music, in questo caso anche Chicken Lips. L'album è Extend and Play, uscito nel 2002, dunque siamo negli anni zero, abbiamo fatto un salto dagli anni 80 fondamentalmente agli anni zero per attraversare questo progetto fondato da Andy Meenan e Dean Meredith, che appunto ha aperto i battenti proprio, diciamo, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni zero con il primo album Echo Man, per poi arrivare a questo secondo album Extend and Play, splendido lavoro uscito per la King Size Records, un house estremamente legato al funk con aperture elettroniche anche piuttosto scure in alcuni frangenti, e sicuramente un progetto che abbiamo già inserito all'interno di 451 frammenti sonori in passato, ma che è perfetto dentro la collocazione di Obliquità Funk di stasera. Vi ricordo anche, dato che non l'avevo fatto nella prima parte della trasmissione, il nostro indirizzo legato al nostro blog, che è un no blog, 451frammentisonori.noblogs.org. lì troverete tutte le informazioni legate alle ultime puntate, anche le puntate, diciamo, dei mesi scorsi. Abbiamo aperto, diciamo, questo sito per dare informazioni, per poter anche scaricare ed ascoltare le puntate in streaming in MP3, praticamente da circa un anno e mezzo, se non due, mi sono un po' perso in termini di durata, forse addirittura due anni e mezzo, vabbè. Comunque troverete l'archivio totale, le ultime trasmissioni con le playlist in quasi tutte, perché non in tutte siamo riusciti ad inserirle, un po' per nostra pigrizia, un po' per varie problematiche, ma le ultime abbiamo curato in maniera particolare sia la playlist musicale che appunto la scaletta in termini di autori e brani. A questo punto andiamoci ad ascoltare l'album Extend and Played, uscito nel 2002, Chicken Lips. Thank you. Siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un doppio mix, in questo caso un mix remix, Chicken Lips da Extended Play, e poi siamo passati attraverso un personaggio proveniente dalla scena di Chicago, un raffinatissimo DJ nonché produttore musicista, Derek Carter, personaggio assolutamente poliedrico sulla scena house di Chicago, estremamente ricercato e raffinato nella costruzione dei suoi lavori elettronici, è forte l'influenza chiaramente della black music, essendo oltretutto un musicista black, molto molto attento alle influenze e richiami anche delle radici della musica funk, e anche con riferimenti a una certa elettro che abbiamo ritrovato soprattutto in quest'ultimo brano che abbiamo inserito collegandolo al lavoro di Derek Carter, sempre Chicken Lips dallo stesso album, un lavoro chiaramente tributario di una certa electro degli anni 80, con forte influenze chiaramente legate alle musicalità, alle sonorità degli anni zero, ma anche con riferimenti abbastanza forti rispetto a una certa elettronica degli anni 90 che era strettamente connessa all'inizio della produzione e della progettualità di Chicken Lips. Derek Carter invece l'abbiamo ascoltato da questo splendido lavoro Square Dancing in Roadhouse, musicista poliedrico veramente molto bravo, soprattutto nei suoi DJ set dal vivo, ma anche molto attento dal punto di vista delle composizioni e dell'attenzione al suono anche nelle produzioni appunto in CD e in vinile. Da Derek Carter, passando per Chicken Lips, abbiamo dunque affrontato una scena, quella legata all'obliquità funk, soprattutto connessa a una certa musica dance e a una certa attitudine musicale connessa appunto all'elemento elettronico, e l'obliquità funk le ritroviamo ancora dentro l'elemento elettronico, in particolar modo da un personaggio che è passato alcune volte, direi abbastanza, anche abbastanza frequentemente, da 451 frammenti sonori, Matthew Herbert, musicista anch'esso estremamente pazzoide nelle sue costruzioni musicali, molto molto influenzato dalla black music e dal funk, dentro la sua elettronica che spazia veramente da varie direzioni, dal glitch per passare attraverso soprattutto alla sua sonorità preferita che è quella connessa alla house, ma anche ha attraversato l'elettro, la techno, e anche si è dilettato a lavorare su musiche, colonne sonore addirittura di film e di documentari, e si è lanciato anche in album estremamente sperimentali. Dunque veramente c'è di tutto dentro l'universo sonoro di Herbert, e noi abbiamo scelto, per stare dentro l'argomento di stasera, la tematica di questa notte, quella dell'obliquità funk, il disco Bodily Functions, uscito per la K7 nel 2001, dunque rimaniamo negli anni zero. Abbiamo aperto con Prince nel 2001, per poi attraversare Chicken Lips 2002, e per Derek Carter invece siamo passati in un disco che invece possiamo dire è più vicino a questo album, 2002 anche lui, e di nuovo ci andiamo a ritrovare il 2002, abbiamo attraversato i primissimi anni zero in questo inizio di seconda parte di 451 sframmenti sonori, sframmenti, bella questa uscita. Bene, adesso entriamo dunque nell'universo sonoro Herbert, troveremo anche una piccola altra sorpresina collegata ad Herbert, per poi viaggiare, per immergerci dentro una sorta di flusso di fuoriuscita di questa serata, che è molto connessa a una dimensione tra virgolette danzereccia, per immergersi dunque verso dentro una sonorità invece che ci porti più dentro le atmosfere quasi di memoria legata soprattutto a quelle sonorità figlie degli anni 70, delle colonne sonore funk riproposte ovviamente però sempre in un'ottica obliqua, di un funk obliquo, soprattutto staccata di qualche decennio da quelle atmosfere, rivisitata chiaramente da parte di questi musicisti che però li ascolteremo alla fine della puntata. Intanto godiamoci Herbert, Bodily Functions 2002, album uscito per la K7. Buon ascolto. Thank you. Thank you. Amen. Abbiamo ascoltato insieme allo splendido lavoro di Herbert da Bodele Fusion 2001, abbiamo mixato i pazzi Dat Politics, formazione assolutamente eclettica della scena elettronica, indefinibili ma con chiare riferimenti a una certa funk, un certo funk, un certo electro degli anni Ottanta, riportati in una dimensione giocosa, delirante, quasi una musica per folli pupazzi che si muovono in una sorta di cartone animato che mischia dimensioni del passato e dimensioni del futuro. Un lavoro comunque molto bello, questo Plugs Plus, uscito nel 2005, lavoro appunto dei Dat Politics, e l'abbiamo remixato di nuovo con un altro album di Herbert, in particolare Plat du Jour, uscito nel 2005 anch'esso per l'Accidental. Le atmosfere di quest'ultimo brano di Herbert hanno fortissimi richiami a un certo soul jazz, a un certo funk da colonne sonore di certi film anni 70. I riferimenti di Herbert sono molto forti rispetto a quel tipo di sonorità, a quel tipo di immaginario visivo e sonoro. E rimanendo in questo immaginario visivo e sonoro, quasi di ricordi rispetto a dimensioni del passato, di quella epopea storica estremamente affascinante che ha attraversato gli anni 60-70, legata a film splendidi e a colonne sonore anch'esse eccezionali e fondanti anche per molti film che hanno attraversato appunto gli anni 60-70, film soprattutto americani, ma che hanno attraversato anche molte dimensioni filmiche anche italiane. Non a caso spesso abbiamo dedicato delle puntate speciali alle colonne sonore degli anni 60-70 di grandi compositori italiani, che non stiamo qua a citare, ma sono veramente tanti, da Cipriani al grande Morricone a tanti altri che dovremmo impiegare un po' di tempo per andare a citarli tutti. Adesso, per rimanere in questo flusso finale, diciamo, di obliquità funk, andiamo a scovare una formazione invece nata negli anni zero, che lavora sulla dimensione jazz funk riportata invece in un territorio elettronico abbastanza particolare. La dialettica tra elettronica e elettroacustica è molto forte dentro il progetto dei Radian, che oltretutto è una formazione che a noi particolarmente sta a cuore perché la sigla di 451 è tratta proprio da un album e da un brano, ovviamente, dei Radian, formazione austriaca che insomma è ben lontana da certi linguaggi, da certe sonorità a livello proprio di dimensione di culturale e storica e sociale, ma che in realtà dall'Austria sono emersi grandi musicisti negli ultimi anni che si sono avvicinati anche a dimensioni legate alla black music, e Radian sono proprio uno di questi. Formazione nata alla fine degli anni 90 che abbiamo rintracciato tramite un album del 2004, Juxtaposition, uscito per la Thrill Jockey, dove appunto le dimensioni jazz funk sono ben presenti, ma ovviamente risentono delle obliquità dei Radian, obliquità proprio fondanti del progetto dei Radian, dentro anche questo brano molto molto bello che ricorda certe atmosfere quasi da film noir anni 60 o 70, e ricorda certe atmosfere di un funk che si trasforma in qualcos'altro, in una dimensione quasi notturna, anche scura, che colora anche di certe dimensioni forti, corporee, fisiche e dunque anche vitali, ma nello stesso tempo c'è la dimensione anche scura, morbosa, che turba sicuramente l'ascolto, che ricorda anche certe atmosfere di certi noir, di certi polizieschi piuttosto inquietanti, che fanno emergere tutti i chiaroscuri delle dimensioni metropolitane. Ce ne andiamo a ascoltare dunque i Radian, Juxtaposition, e dunque entriamo nel flusso, diciamo, noir, usiamo questo termine, noir di obliquità funk di questa sera di 451 frammenti sonori. Radian. Thank you. E siamo rientrati in diretta, splendido veramente questo brano da Iradian, album Juxtaposition 2004, e in queste atmosfere notturne andiamo a chiudere la puntata di stasera. Obliquità funk dagli anni 80 agli anni zero, e chiudiamo proprio negli anni zero con un personaggio assolutamente geniale, poliedrico, eclettico, assolutamente incatalogabile e diciamo anche difficilmente da inserire appunto in dimensioni sonore, in stili, perché appunto ha sempre variato e giocato con anche l'identità sonora, l'identità progettuale, d'altronde porta avanti anche un progetto di identità legato ai generi, essendo un personaggio che ha portato avanti delle battaglie piuttosto anche nette, importanti, politiche, sociali, culturali, legate appunto alle differenze di genere, a un discorso di alterità dalle norme ovviamente imposte legate alla sessualità, personaggio legato al movimento transgender GLBTQ, personaggio che ha attraversato diverse volte 451 frammenti sonori. Parliamo di Ter Telmiz, che in varie progettualità, in vari contesti, ha saputo coniugare sperimentazione musicale, musica dance estremamente elaborata e estremamente giocosa e decostruita, quasi appunto a decostruire anche collegandola a un discorso appunto di identità sessuali e non solo, identità anche umane, personali. Ter Telmiz, in questo lavoro splendido Tranquilizer del 2003, inserisce un contesto musicale, quello legato alla memoria, alle dimensioni sonore connesse a una certa dimensione filmica, visiva, che lui stesso oltretutto ha attraversato diverse volte, essendo un performer a tutto tondo, lavorando non solo sulla parte sonora ma anche sulle parti video e costruendo anche progettualità connesse a installazioni sonore, a video art. È veramente appunto un personaggio a tutto tondo legato alla dimensione di un'arte che però non è staccata dalla dimensione della realtà, dalla dimensione sociale e culturale, ma cerca sempre di dialettizzarsi in un'ottica anche piuttosto polemica e politica, connessa appunto allo strumento comunicativo che lui stesso utilizza in varie direzioni, in varie forme. Tranquilizer, un album uscito nel 2003 per la Instinct, e in realtà è un disco che poi riprende chiaramente un lavoro anche passato, perché questo album va a recuperare ovviamente un lavoro che in realtà è datato 1994, che lui viene che utilizza per riproporlo quasi 10 anni di distanza. Il brano che abbiamo selezionato è un brano estremamente suggestivo, che rimanda nell'ascoltatore sicuramente delle immagini molto forte, crea comunque una dimensione di viaggio visivo e mentale attraverso appunto le sonorità che Telmiz quasi dipinge su una tela immaginaria e poi pone all'interno di una sorta di percorso lineare sonoro. Andiamo a sentire da questo album il brano Meditation of a Mountain Oyster, che è veramente un brano assolutamente splendido, che è considerato poi oltretutto in questo album uno dei due brani migliori in assoluto. Ce l'andiamo dunque a ascoltare, album uscito nel 2003 ma che in realtà sono registrazioni del 1994, dunque viaggiamo in una sorta di ritorno al passato attraverso un album comunque che è già del passato, cioè del 2003, ma che va a riscoprire un lavoro passato del 1994 con Ter Telmiz, con questa atmosfera assolutamente suggestiva dove la dimensione funk attraverso invece delle sonorità, delle ambientazioni molto molto differenti rispetto a quelle che abbiamo inserito nella prima parte e in tre quarti quasi della seconda parte di stasera. Andiamo dunque a chiudere la puntata di Obliquità Funk. Ovviamente 451 Frammenti Sonori ritornerà in onda sempre sulle frequenze di Radio Città del Capo domenica prossima. Saremo qua presenti in diretta sia io che Max Macchi, e dunque ritorneremo insieme a condurre probabilmente una delle ultime puntate di questa stagione 2011-2012, anche perché poi il caldo sarà probabilmente insostenibile, ma non si sa mai, perché negli ultimi due anni luglio è stato un po' strano. Comunque ve lo diremo sicuramente domenica prossima. Ovviamente vi ascolto, bella questa cosa, vi ascolto attraverso la radio, anch'io ho delle antenne che ascolto gli ascoltatori. Vi aspetto, volevo dire, domenica prossima. Vi lascio dunque con Tertelmitz, Tranquilizer, album appunto registrato nel 1994, uscito nel 2003. Tertelmitz per chiudere le Obliquità Funk di 451 Frammenti Sonori. Buonanotte. Thank you.